Il diario di Q. Anversa, 7 settembre 1550. L'enigma mi riporta indietro, fuori dalle mura di Münster. Forse è un'allucinazione, notizie che collego arbitrariamente, inseguendo un morto. Chi? Potrei essere io stesso, l'ultima caccia per allontanare la fine imminente. Cosa fa un uomo quando sa di essere morto? Antichi prezzi devono essere pagati, a partire dai ricordi che la mente aveva cancellato. Fuori da quelle mura. Dentro un fosso fangoso, la vita appesa alle mani luride che plasmano la terra, i baffi arroganti del mercenario che mi tiene la lama sul collo. L'odore di erba bagnata, steso come un insetto nella terra di nessuno, tra la città e il resto del mondo, indietro non si torna, davanti l'ignoto, esercito di prezzolati pronti a sparare su chi varca quelle mura. Fango che scivola tra le dita, i torrioni, i punti più facili da penetrare. La tua vita non vale un cazzo, mi dice, fai conto di essere già morto. Gli descrivo, concitato, ogni fortificazione, ogni passaggio, i turni di guardia, quante sentinelle a ogni porta. Ti puoi allungare la vita fino alla tenda del capitano, dice e ride. Mi colpisce e mi trascina via. Il capitano von Daun mi salvò la vita e mi diede una possibilità. Le esatte parole. Se questa notte riesci a risalire sulle mura e tornare qui, senza farti ammazzare, mi dimostrerai che posso fidarmi di te. Così si compì il tradimento, progettato e custodito fin dall'arrivo nella città dei folli, gomito a gomito con loro, per oltre un anno. Gli ultimi mesi di fame e delirio sono una macchia nera che la mente ha cancellato. Non mi sono mai voltato indietro in tutto questo tempo, 15 anni, a cercare i volti e le parole di quegli uomini. Forse perché ho voluto nascondere a me stesso di aver anch'io vacillato, per un istante, laggiù in quel fosso, come se la follia avesse contagiato anche me, distogliendo la mente dal compito assegnato. Forse perché quel giorno ho rischiato di fallire miseramente, infilzato dai mercenari vescovili che invece per qualche caso del destino scelsero di trascinarmi davanti al loro capitano. Nei giorni successivi, dopo il massacro, il vescovo von Waldeck, tornato signore assoluto di Münster, come trono una catasta di cadaveri, andava dicendo che quelli come me, eroi guerrieri della cristianità, non sarebbero mai stati dimenticati, in opere ed effigie. Sapeva di mentire il bastardo. È proprio di quelli come me che va smarrita ogni traccia. Gli esecutori, pronti a essere ributtati nella sentina dove nobili signori li raccolsero, per affidare loro luride mansioni. Allora pregai il mio signore, l'alfiere nero di Cristo, di portarmi via da quelle terre, da quell'orrore che aveva lacerato le mie carni e incrinato la mia fede. Oggi è là che devo tornare, senza alcuna fede, a incidere le cicatrici.